Se la notte è scura come una barriera, se ti fa paura e sei prigioniera di una voglia incerta fra di noi nascosta, tu la foglia aperta, io ti guardo e basta, aspettando il tempo che tu fiorisca dentro me. Cominciamo piano, vieni più vicino, prendi la mia mano e fanne il tuo cuscino. Usa le parole, quelle più sincere, e diventa fiore, fatti respirare, aspettando il tempo che questo amore, amore sia. Come le stagioni se ne vanno via, non si ferma niente in questa vita mia. Se sarà l'inverno che mi butta giù, non so dirlo adesso ma decidi tu. Quanti giorni avremo se per noi verrà primavera accesa, tinta di lilla. Come le canzoni della vita mia, non durare il tempo di una melodia. Oramai i tuoi occhi sono il mio paese, con la piazza, i vecchi dalle lunghe attese, con il porto e il mare che fa ripartire. Ma tu dimmi amore che non te ne andrai. Lei era diversa, molto più sicura, un amore a morsa, quasi un'avventura. Ma tu sei la pioggia che fa stare a letto, il calendario di maggio quando fuori è brutto, aspettando il tempo che questo amore, amore sia. Come le stagioni se ne vanno via, non si ferma niente in questa vita mia. Se sarà l'inverno che mi butta giù, non so dirlo adesso ma decidi tu. Quanti giorni avremo se per noi verrà primavera accesa, tinta di lilla. Come le stagioni della vita mia, non durare il tempo di chi passa e via. Tanto le mie braccia sono ormai aperte e non ho più scelta, posso solo amarti come faccio adesso, dietro questa porta che nasconde abissi di malinconia. Decidi tu. Ma decidi tu. Se per noi verrà